Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro dodicesimo, versi 116-428. Sbarcato a Troia l'esercito greco, si accende una furibonda battaglia tra gli invasori e i troiani. Imperversa Achille, ma non riesce ad abbattere un tal Cicno, anzi non riesce nemmeno a scalfirlo, e si domanda: allora non valgo più niente. Ciò detto, quasi a mettere in dubbio i fatti, ecco scaglia la lancia contro certo Menete, un licio qualunque, e sfonda corazza e torace sottostante in un unico colpo. Al poveraccio che sbatte la testa per terra, morendo, Achille estrae dalla piaga calda la punta di ferro e urla: «Questa è la mano che vince, la lancia è questa! Ci provo! Speriamo che facciano lo stesso effetto anche a lui!» Nel dirlo prende la mira su Cicno e il frassino non si sbaglia, anzi imbrocca ronzando la spalla sinistra di Cicno, la quale però lo respinge quasi fosse un muro o una roccia. Peraltro nel punto colpito Achille vede una traccia di sangue, sangue di Cicno, esulta, ma esulta per cosa? Non c'è nessuna ferita, è di Menete quel sangue. Allora sì, furibondo si scaraventa dal carro e con la spada che sfolgora aggredisce nel corpo a corpo il nemico impassibile. Vede che il ferro fora corazza ed elmo, ma poi contro il duro del corpo constata si ottunde. Non ne può più, con lo scudo se lo schiaccia addosso e con l'elsa lo colpisce 3-4 volte in faccia, sulle due tempie, e quello rincula e lui gli sta sopra, lo rimbambisce, lo soffoca, non gli dà tregua. Il terrore si impadronisce di Cicno, sugli occhi gli fluttua la tenebra e nel retrocedere urta di spalle in un sasso che s'alza in mezzo alla piana. Con tutta la forza Achille ce lo spinge contro, rovescia sulla schiena il povero Cicno e l'inchioda per terra, poi premendogli il petto con tutto lo scudo e con i ginocchi gli tira i lacci dell'elmo che gli passano sotto il mento e lo strangola a forza di stringere e con il fiato gli strappa via l'anima. Quando poi si accinge a spogliare il nemico non trova che l'armatura. Il dio delle acque ha mutato quel corpo nel candido corpo dell'uccello che ha sempre il suo nome. A queste fatiche, a scontri così fatti, tien dietro una tregua di giorni. Deposte le armi, entrambe le parti traccheggiano. E mentre in allerta una ronda di frigi monta la guardia alle mura, mentre una ronda sorveglia in allerta i fossati dei greci, Achille festeggia la vittoria su Cicno e si adopera a tenersi buona Minerva immolandole sangue di vacca. Deposti sopra la fiamma degli altari i pezzi di carne e insinuandosi in cielo un odore che delizia agli dèi, delle due destinano al rito una parte e l'altra la servono in tavola. Si sdraiano i generali sui divani e, riempiendo lo stomaco di arrosto, col vino si tolgono la sete e i cattivi pensieri. Ma non si dilettano al suono di chitarre o di belle canzoni o del lungo flauto di bosso crivellato di fori, piuttosto passano tutta la notte a discutere di virtù militari. Raccontano gesta proprie e dei loro nemici, si compiacciono di rievocare a turno pericoli corsi e scampati. Di che cos'altro potrebbe parlare un Achille? Di che cos'altro in presenza di lui si potrebbe parlare? L'ultima sua prestazione col povero Cicno è il soggetto principale. Si dicono tutti sbalorditi che il corpo del giovane risultasse alle lance del tutto impenetrabile e che, refrattario a qualsiasi ferita, smussasse l'acciaio. Gli Achei quanti sono, lo stesso Achille non se ne fa una ragione. Allora Nestore dice: «La vostra generazione di invulnerabile al ferro non ha conosciuto che Cicno. Ai miei tempi, invece, ho ben visto martellato di colpi, ma senza una sola ferita addosso, tal Ceneo della Perrebia. Sì, Ceneo della Perrebia, famoso, viveva sull'Otri. E tanto più sbalordiva la cosa in quanto era nato femmina». Femmina? Tutti a sentir l'incredibile storia pretendono che la racconti. Achille per primo: «Raccontati, prego, siamo qui tutti, tutti orecchi per ascoltarti, vegliardo facondo, saggezza dell'epoca nostra. Chi era? Chi era mai questo Ceneo? Com'è che ha cambiato di sesso? In che spedizione, in quale battaglia l'hai conosciuto? E chi lo ha vinto, concesso che l'abbiano vinto? Racconta». E il vecchio: «Sebbene l'età inoltrata mi appanni, e moltissimo di quello che ho visto da giovane sia svanito nel tempo, i ricordi non mi mancano. E cosa non c'è che mi sia rimasta altrettanto impressa fra quante io ne abbia esperite in tempo di guerra o di pace? E se c'è qualcuno che nel corso d'una spaziosa vecchiaia viste ne ha viste davvero tantissime, eccomi. 200 anni ho compiuto e m'inoltro nel secolo terzo». Figlia di Elato, Ceni, meraviglia della Tessaglia, talmente era bella e famosa che turbe di pretendenti dei dintorni e della tua terra, in fondo era tua compaesana, Achille, sognavano invano di accompagnarsi con lei. Non escludo che Peleo stesso volesse portarsela a letto, ma se non aveva sposato di già tua madre, le si era quantomeno promesso. D'altronde lei, Ceni, non intendeva sposare nessuno. E un bel giorno che su una spiaggia appartata passeggiava, a quanto raccontano, il dio delle acque la prese. Godutosi quella imprevista avventura erotica, pare Nettuno dicesse: «Desideri qualcosa? Non farti problemi, scegli tutto quel che ti pare». Anche questo raccontano. Disse Ceni: «L'oltraggio pretende un risarcimento assoluto. Non voglio patirlo mai più. Ti chiedo solo di smettere d'essere donna». E nel dirlo le si abbassano le parole. Dal suono diresti che quella è la voce di un uomo. In effetti era un uomo. Il dio degli oceani aveva esaudito quel voto e, come se non bastasse, al giovane aveva accordato d'essere invulnerabile e, in ordine al ferro, immortale. Felice del privilegio, lui si applica a prestazioni virili, il tessalo Ceneo, e batte il bacino del Peneo. Il figlio del temerario Issione, avendo sposato Ippodamia, a una gran tavolata in uno spazio nascosto nell'ombra d'un bosco, invitò i brutali figli di Nefele. «Ecco i più ragguardevoli della regione, eccomi anch'io». Nel palazzo rumoreggiava la baraonda festosa, i soliti inni di nozze, i soliti fuochi che fumano nell'atrio, finché si presenta in un cerchio di vecchie signore e di giovani, lei sfolgorante di bellezza. «Beato Pirito!» diciamo tutti, un istante e l'augurio ci va contro gola. «Infatti tu, Eurito, il più mascalzone di quei mascalzoni di centauri, già acceso dal vino, divampi alla vista di lei e l'ubriachezza imperversa raddoppiata dalla libidine. Un istante, e la festa di nozze va in fumo, rovesciano i tavoli, la sposa novella la acciuffano tirandola per i capelli. Come Eurito mette le mani su Ippodamia, gli altri le mettono dove meglio credono. Sembra il sacco d'una città. La casa rimbomba di grida di donne. Noi tutti balziamo in piedi e Teseo per primo. Sei pazzo, Eurito, urla, a provocare Pirito o me vivo. Non sai che me vivo, chi offende lui non offende lui solo, offende anche me. Le parole di eroe così fatto non lasciano il tempo che trovano. Spintona gli astanti e ristrappa la donna a quei pazzi furiosi. Non risponde Eurito come giustificare a parole quel contegno. Invece con furia manesca fa tanto di prendere a pugni in faccia l'eroe indignato e pestarlo sul petto. Per caso c'era a portata un enorme cratere antico con figure in rilievo. Teseo, più imponente di lui, lo solleva e lo scaraventa sul capo dell'avversario centauro. Vomita quello ad un tempo per la bocca e per la ferita vino, grumi di sangue, cervella e crolla di schiena scalciando la sabbia che inzuppa. La morte del confratello eccita quei bestioni che urlano «Ammazza! Ammazza!». Alterati dal vino, scatenano la rissa col lancio di fragili bicchieri, caraffe, brocche di bronzo. Quanto era servito per il pranzo, adesso serviva per combattere e per massacrarsi. Per primo Amico, figlio di Esione, non si fa scrupolo di violare il santuario e per primo arraffa un bel candelabro stracarico, se ricordo, d'un vero tripudio di fiamme, lo solleva sopra la testa come il prete che si dispone a mozzare con tanto di scure il candido collo di un toro e lo lascia piombare sul cranio dell'apite Celadonte, spappolandogli tutta la faccia in un marasma di ossa. Schizzano gli occhi e le ossa della faccia sono ridotte che, rincagnandosi, il naso gli si pianta in mezzo al palato. Ma con la zampa d'un tavolo d'acero, Pelate abbatte il centauro, lo lascia col mento che ciondola contro il torace e, assestando a quello che sputa denti e sangue nerastro una seconda mazzata, lo manda fra le ombre del Tartaro. Lì c'era Grineo, centauro, che con occhio torvo, sbirciando le aree fumanti, si chiede «Di queste che ne facciamo?». Solleva l'enorme altare con tutte le fiaccole sopra e lo fa volare nel mezzo d'un drappello di lapiti e due ne schiaccia, Brotea ed Orio. Orio, che era figlio di Mincale, che più d'una volta risulta avesse tirato di sotto dal cielo con incantamenti ritrosa una falce di luna. «Non te la passi liscia», prorompe Sadio, «se solo mi trovo un'arma, ed un'arma si fa delle corna d'un cervo appese in offerta votiva lassù sulla cima di un pino». E a Grineo la doppia punta di corno la caccia negli occhi, glieli cava. L'uno gli resta infilzato a una punta, l'altro gli penzola dentro la barba, incollato a uno spurgo di sangue. Quando ecco Tireto, che strappa da centro altare un tizzone di legno di prugno e fracassa con un colpo a Carasso la tempia di destra, per quanto protetta da un cespuglio di biondi capelli, i quali, appena la fiamma li ghermisce, divampano come stoppie secche ed il sangue che frigge nella ferita produce un orrendo stridore, lo stesso che il ferro rovente produce le volte che il fabbro, con le sue tenaglie uncinate, lo estrae dal fuoco e lo caccia dentro la vasca, che quello appunto stride e sibila nell'acqua che stiepidisce. Il ferito tenta di scuotere dai capelli crespi le fiamme ingorde, solleva e si carica addosso un enorme architrave, nemmeno egli fosse un carro, ma il peso non gli consente di gettarlo contro il nemico, anzi, la mole di pietra gli schiaccia l'amico Cremete, che stava a due passi da lui. Reto scoppia di gioia. che bello se i tuoi camerati son tutti maltestri così, gli urla, e gli ricaccia dentro la piaga il tizzone consumato fino a metà. Poi con 3-4 mazzate gli dissalda le suture del cranio e le ossa si adagiano a bagno dentro il cervello. Trionfante punta su Evagro, su Corito e su Driante. E come Corito aveva sulle guance una prima peluria stramazza, Evagro gli urla: «Che gloria ti sei conquistato ad ammazzare un bambino!» Ma Reto non gli dà tempo di dir altro che in quella bocca la belva ha piantato una torcia e adesso attraverso la bocca gliela sta piantando nel petto. «E braccate pure, Driante, mulinandoti intorno alla testa il tizzone, però con te non ottiene lo stesso successo. Mentre lì che esulta di tanta carneficina, gli ficchi la punta indurita d'un palo fra la scapola e il collo. Caccia un rantolo, Reto, e si sforza di scastrarsi il palo dall'osso, e adesso chi fugge è lui dentro un sudario di sangue. E scappano Orneo, Licabante e Medonte, ferito alla spalla destra, e Taumante e Pisenore scappano, e Mermero scappa, che a correre aveva appena battuto tutti, ma ora, attardato da una ferita, trascina i piedi. Anche Folo, Melaneo ed Abante, grande cacciatore di cinghiali, anche Astilo, l'indovino, che aveva tentato invano di dissuadere i suoi dalla guerra, ed Annesso, che ha paura d'esser ferito, destinato all'arco di Ercole, che scappi a fare, gli fa. Invece Eurinomo, Licida, Areo, Timbreo non riescono a evitare la morte. Driante tutti e quattro li prende di petto. E tu pure, Careneo, sei stato colpito in piena faccia, sebbene nel dartela a gambe voltassi le spalle, che appena giri la testa ti prendi fra gli occhi un bel carico di ferro che ti si pianta dove il naso s'attacca alla fronte. In tutto quel putiferio Afida, come se niente fosse, sta lì sdraiato che dorme sopra la pelle di un'orsa del Monte Ossa. Svegliarlo è impossibile. In mano gli è rimasto languidamente un boccale di vino allungato. Vedendolo da lontano inerme ed imbelle, Forbante infila l'impugnatura del giavellotto e «Perché?» gli urla, «non lo allunghi con l'acqua di Stige il tuo vino!» e scaglia l'asta, ed il frassino con la punta di ferro si pianta nel collo del giovanotto centauro, sbracato com'è. Muore e non se ne accorge. Un sangue nero gli colma la bocca, trabocca, gli imbeve il letto, gli va nel bicchiere. Con questi occhi l'ho visto, Petreo che tentava di sradicare una quercia coperta di ghiande. La abbraccia, la sgrulla, ma mentre la sbatacchia da tutte le parti che il tronco sta per franare, la lancia del grande Pirito gli traversa la gabbia toracica e lo inchioda al tronco medesimo con cui si sta dando da fare. Per mano di lui, Pirito, cade Lico, a quel che si dice, e Cromi per mano di lui, ma non gli procurano in due la gloria che ottiene abbattendo Ditti ed Elope. Elope lo trapassa con un giavellotto che, entratogli dalla tempia, gli collega l'orecchio destro all'orecchio sinistro. Ditti, che invece per sottrarsi al figlio di Sione si lascia scivolare giù per la china opposta ad un monte, precipita a capofitto e col peso del corpaccio fracassa un frassino gigantesco per pavesarlo col festone delle budella. Vindice si fa sotto a Fareo e, staccato dal monte, un macigno fa per gettarlo, ma Teseo, figlio di Egeo, lo previene e con una mazza di quercia gli spacca l'osso del gomito. Poi, senza darsi il tempo e la pena, quel corpo inutile Di finirlo salta in groppa Bienore, groppa che fino ad allora portare aveva portato lui solo. Gli schiaccia con un ginocchio le costole, con la sinistra gli tira indietro i capelli e col randello gli spacca la faccia, la bocca che impreca, la cotica delle tempie. Con lo stesso randello ammazza Edimno e Licope, gran giavellotto, ed Ippaso che il petto si foderava con la barba, e Rifeo, più alto delle chiome delle foreste, e Tereo che catturava sui monti della Tessaglia gli orsi e se li portava a casa, vivi e ringhiosi. Demoleonte però non tollera un Teseo che passa da un trionfo all'altro e tenta col massimo sforzo di svellere dal terreno compatto un vecchio pino, ma non riuscendoci lo spezza e ne butta un pezzo addosso al nemico. Il nemico, se non che, messo in guardia da Pallade, si scansa e schiva il proiettile. Il nemico, Teseo, cioè, questa almeno la sua versione. Ma non cade nel vuoto l'albero, che anzi stacca cadendo il torace di Crantore il Bello dalla sua spalla sinistra. Crantore, ai tempi Armigero, di tuo padre, Achille, che Amintore, re dei Dolopi, vinto in battaglia dal figlio di Eaco, tuo padre, glielo aveva assegnato in pegno di lealtà, per non dire in ostaggio. Quando Peleo lo vede spaccato a metà, da lontano gli grida: «Amatissimo giovane Crantore, accetta quest'obolo funebre, ti prego», e con tutta la forza del braccio e dell'intenzione scarica su Demoleonte il giavellotto di Frassino, che gli fora la gabbia toracica e gli si pianta vibrando nell'osso. Quello lo estrae, ma gli resta dentro la punta. Se il legno è uscito a fatica, trattiene la punta il polmone. Il dolore gli mette coraggio, si impenna, ferito com'è, e scalcia e martella il nemico con gli zoccoli da cavallo. Grazie allo scudo e all'elmetto, Peleo ammortizza la grandine e si protegge le spalle puntando in alto la spada, finché, con un unico colpo, trapassa i due petti alla bestia. Ma a quel punto aveva di già ammazzato Ile e Flegreo da lontano, Ifino e Clani in corpo a corpo. All'elenco aggiungi Dorila che si copriva la testa con la pelle di un lupo e brandiva a guisa d'arma letale le corna divaricate e rosse del sangue d'un bue. Io gli dico, mi ringalluzziva la rabbia, ma vuoi vedere che quelle tue corna non valgono il ferro di questa lancia? Gliela tiro addosso. Lui, non potendo evitarla, si copre la fronte che sta per ricevere il colpo con una mano e io gliela inchiodo in fronte, la mano, un urlo, e rimane impalato. L'atroce ferita lo sopraffà quando Peleo, che gli stava vicino, gli pianta la spada in pancia da sotto. Quello dà un balzo e trascina le budella per terra impazzito e trascinate le pesta e pestate le strappa e ci incespica con le zampe finché non crolla sulla sua pancia svuotata. «E non ti ha salvato in battaglia la bellezza, Cillaro, ammesso che con la tua mezza natura la bellezza sia compatibile?» Aveva un principio di barba d'oro, e d'oro i capelli gli scendevano giù per le spalle fino a metà delle scapole. Una forza gentile nel viso, nuca, braccia, mani, torace e tutto quanto ha di uomo ricorda le più celebrate opere d'arte, né quanto di cavallo ha sotto sfigura con l'umano, mettigli collo e testa equina, e sarebbe un cavallo degno di Castore. La groppa è un sedile eccellente, il petto un fascio di muscoli, tutto nero come la pece, ma ha la coda candida, come candidi sono i garretti. Moltissime della sua gente lo desideravano, una se lo prese, Ilonome. Lei la più bella fra quante metà cavalle abitassero e abitino i boschi nascosti nei monti. Se l'è preso e se lo tiene per sé, carezzandolo, amandolo, dicendogli quanto lo ama e curando la propria persona per quanto possibile, pettina i capelli lisci, li intreccia con rami di rosmarino, se non di rose, se non di violette, se non con gigli abbaglianti di bianco. Due volte al giorno si lava la faccia nell'acqua della sorgente che nasce nei boschi di Pagase. Due volte fa il bagno nel fiume, di più, nello scegliere le pelli pregiate che meglio le caschino dalla spalla e sul fianco sinistro, non c'è caso che sbagli una mossa. Uno stesso amore li unisce. Caracollano insieme in montagna, nelle grotte si infilano insieme ed entrati fianco a fianco nel palazzo dei Lapiti, adesso fieramente si battono insieme. Non si sa il responsabile, ma da sinistra arriva una lancia che ti passa Cillaro un po' più sotto di dove il torace si giunta col collo. Sebbene rasentato appena, il tuo cuore, estratta l'arma, si gela con tutta la tua persona. E Ilonome lì che raccoglie quel corpo morente, che preme la mano sulla ferita per tenerla calda, che applica la bocca alla bocca, tentando di opporsi alla fuga dell'anima. Ma quando morto lo vede, grida, l'urlio mi impedisce di capir cosa, e s'avventa sulla punta piantata nel corpo di lui, e morendo si stringe fra le braccia il marito strettissimo.